Ebbene, allora siedi qui, disse zia Grazia, avvicinando due sgabelli al focolare. Siedi qui, figlia, e tu siedi qui, gioiello mio, sedete qui entrambi e discorrete. Fece sedere Olì e pretendeva di fare altrettanto con Anania, ma egli si scosse bruscamente. Lasciatemi dunque, non sono un bimbo, vi ho detto. D'altronde, egli riprese, camminando su e giù per la cucina, c'è poco da discorrere. Ho già detto quanto dovevo dire. Ella rimarrà qui finché io non ordinerò altrimenti. Voi ora le comprerete le scarpe e un vestito, vi darò i danari. Ma di questo parleremo poi, intanto. E alzò la voce per significare che si rivolgeva ad Olì. Rispondete voi. Che cosa rispondete dunque? Credendo che gli parlasse con la vedova, Olì non rispose. Hai sentito? Le disse zia Grazia con voce dolce. Che cosa rispondi? Io. Ella chiese a bassa voce. Sì, tu. Io nulla. Avete debiti? Domandò Anania. Verso No. il cantoniere, no? No. Si hanno tenuto tutto quanto avevo. Che cosa avevate? I bottoni d'argento della camicia, le scarpe nuove, 12 lire in argento. E che cosa possedete ora? Nulla. Come mi vedi, mi scrivi. Disse ella toccandosi il grembiale, la sua voce era cupa, cavernosa. Avete qualche carta? Qualche Cosa? carta, spiegò zia Grazia. Sì, la fede di nascita. Sì, la fede di nascita. Ella rispose toccandosi il petto. L'ho qui. Fate vedere. Ella trasse una carta gialliccia, macchiata d'olio e di sudore, mentre Anania ripensava amaramente alle ricerche e alle indagini fatte per scoprire se Maria Obinu possedeva carte rivelatrici. Zia Grazia prese la carta e gliela diede, egli la svolse, la lesse, la restituì. Perché ve la siete procurata? Domandò. Il Per sposarmi con Celestino. cieco, spiegò la vedova e aggiunse borbottando quell'immondezza vile. Anania tacque e continuò a camminare su e giù per la cucina. Il vento sibilava incessantemente intorno alla casetta. Dalle fessure del tetto piovevano alcune strisce di sole che disegnavano fantastiche monete d'oro sul pavimento nero. Anania camminava divertendosi automaticamente a mettere i piedi su quelle monete, come usava una volta da bambino, e si domandava che cosa gli restava da fare. E gli sembrava d'aver già esaurito una parte del suo grave compito. Io ora chiamerò di là zia Grazia, pensava, e le consegnerò i danari perché le compri le vesti e le scarpe e le dia da mangiare. Poi partirò e vedrò. Qui non mi resta altro da fare. È tutto fatto, ripete fra sé con infinita tristezza. Tutto è finito. Gli venne in mente di sedersi accanto a sua madre, di chiederle come aveva vissuto, di rivolgerle una sola parola di dolcezza e di perdono, ma non poteva, non poteva. Il solo guardarla lo disgustava. Gli pareva che ella puzzasse, e in realtà ella emanava quello sgradevole odore tutto speciale dei mendicanti, e non vedeva l'ora di andarsene, di fuggire, di togliersi dagli occhi quella vista dolorosa. Eppure qualche cosa lo tratteneva, egli sentiva che la scena non poteva terminare così, dopo poche frasi. Pensava che Olì forse, fra la sua paura e la sua vergogna, gioiva ad avere un figlio bello, forte, civile, e nel suo disgusto, nel suo dolore, anche egli provava un meschino conforto dicendo a se stesso: almeno non è sfrontata, forse si può redimere ancora, è incosciente, ma non sfrontata, non si ribellerà. Eppure ella si ribellò. Ecco, egli ricominciò dopo un lungo silenzio, voi rimarrete qui finché non avrò aggiustato i miei affari. Zia Grazia comprerà le vesti e le scarpe. A voce rauca e dolente risuonò forte. Io non voglio nulla, io no. Come no? Egli chiese, fermandosi di botto davanti al focolare. Io non resto. Cosa? Egli gridò sporgendosi in avanti, coi pugni stretti e gli occhi spalancati. Spiegatevi meglio. Ah, dunque, non era tutto finito. Ella osava. Perché osava? Ah, ella dunque non capiva che suo figlio aveva sofferto e lottato durante tutta la sua vita per raggiungere uno scopo, quello di ritirarla dalla via della colpa e del vagabondaggio, anche sacrificandole tutto il suo avvenire. Perché Perché ora ella osava ribellarglisi? Perché voleva sfuggirgli ancora? Non capiva che egli le avrebbe impedito di far ciò, anche a costo di un delitto? Spiegatevi, egli ripeté, dominando a stento la sua collera, e stette ad ascoltare fremente, esaltato, ficcandosi le unghie puntute sulle palme delle mani, mentre il suo viso andava di momento in momento deformandosi sotto la pressione di un dolore senza nome. Zia Grazia lo fissava, pronta anch'essa a gettarglisi sopra se egli osava toccarlo lì. Fra le tre creature selvagge, riunite intorno al focolare, la fiamma di un tizio sorgeva, azzurrognola e cigolava, pareva piangesse. «Ascoltami», disse Olì animandosi, «non adirarti. Tanto oramai la tua collera è inutile. Il male è fatto e nulla più lo può rimediare. Tu puoi uccidermi, ma non ne ritrarrai alcun beneficio. L'unica cosa che tu possa fare è di non occuparti di me. Io non posso restare qui. Me ne andrò e tu non udrai più mie notizie. Figurati di non avermi mai incontrata». «E dove vuoi andare?» chiese la vedova. «Anch'io gli ho detto queste cose, ma egli non capisce la ragione. Ci sarebbe però un mezzo. Rimani qui egualmente, invece di andare per il mondo. Non diremo chi tu sei ed egli vivrà tranquillo, come se tu fossi lontana. Perché, povera te, se vai via di qui, dove andrai?» «Dove Dio vuole». «Dio!» proruppe Anania, dandosi forti pugni sul petto. «Dio ora vi comanda di obbedirmi. Non osate neppure più ripetere che non volete restare qui. Non osate!» Egli disse come in delirio. «Credete che io scherzi forse? Non osate muovere un passo senza ordine mio, altrimenti sarò capace di tutto». «Per il tuo bene», ella insisté, «ascoltami almeno. Non essere feroce con me, mentre sei indulgente con tuo padre, con quel miserabile che fu la mia rovina». «Ella ha ragione», disse la vedova. «Tacete!» impose Anania. Olì prese ancora più coraggio. «Io non so parlare, Ananì. Io ora non so parlare perché le disgrazie mi hanno resa stupida. Ma una sola cosa ti domando. Non avrai tutto da guadagnare restando qui? Se voglio andar via non è per il tuo bene. Rispondi». «Ah, egli neppure mi ascolta», disse poi rivolta alla vedova. Anania camminava nuovamente su e giù per la casa, per la cucina, e pareva non udisse davvero le parole di Olì, ma a un tratto trasalì e gridò: «Ascolto!» Ella riprese umilmente: «Perché dunque vuoi che io rimanga qui? Lasciami andare per la mia via, come un giorno ti feci del male. Lascia che ora possa farti del bene. Lasciami andare. Io non voglio esserti di impedimento. Lasciami andare per il tuo bene». «No!» egli ripeté. «Lasciami andare, te ne supplico. Sono ancora buona a lavorare. Tu non saprai più nulla di me. Sparirò come la foglia portata dal vento». Egli s'aggirò su se stesso. Una terribile tentazione lo insidiò. Lasciarla andare. Per un minuto secondo una folle gioia gli brillò nell'anima al pensiero che tutto poteva considerarsi come un sogno maligno. Una sola parola e il sogno svaniva e tornava alla dolce realtà. Ma subito ebbe vergogna di se stesso. La sua ira crebbe, il suo grido echeggiò nuovamente nella tetra cucina. «No! Tu sei una belva», mormorò lì. «Non sei un cristiano, sei una belva che morde le sue stesse carni. Lasciami andare, fanciullo di Dio, lasciami! No!» «Una belva davvero», confermò zia Grazia mentre Olì taceva e pareva vinta. «C'è bisogno di urlare così? No, no, no, fuori! Se sentono, crederanno che c'è un toro selvatico chiuso qui dentro. Sono queste le cose che ti hanno insegnato a scuola?» «A scuola mi hanno insegnato queste ed altre cose», egli disse abbassando la voce che gli si era fatta rauca. «Mi hanno insegnato che l'uomo non deve lasciarsi disonorare a costo di morirne. Ma voi non potete capire certe cose. Infine, tagliamo corto e state zitte, tutte e due». «Io non capisco, io capisco benissimo», protestò la vecchia. «Nonna, voi capite davvero, ricordatevi, ma basta, basta», esclamò egli, agitando le mani stanco, nauseato. Le parole della vecchia lo avevano colpito. Egli ritornava cosciente, ricordava che si era sempre ritenuto un essere superiore e voleva porre fine alla scena dolorosa e volgare. Basta, ripeté a se stesso, lasciandosi cader seduto in un angolo della cucina e prendendosi la testa fra le mani. Ho detto no e basta, finitela ora, aggiunse con voce affranta. Maolì s'accorse benissimo che era invece il momento di combattere, ella non aveva più paura e osò tutto. Senti, disse con voce umile, sempre più umile, perché vuoi rovinarti, figlio mio? Sì, ella ebbe il coraggio di dir così ed egli non protestò. Io so tutto. Tu devi sposarti con una fanciulla ricca e bella. Se ella viene a conoscere che tu non mi rinneghi, ti rifiuterà. E ha ragione, perché una rosa non può stare vicina a un'immondezza. Fallo per lei. Lasciami andare. Ella crederà sempre che io non esista più. Ella è un'anima innocente. Perché dovrebbe soffrire? Io andrò lontano, cambierò nome, sparirò, portata via dal vento. Basta il male che ti feci involontariamente. Sì, involontariamente, figlio mio, io non voglio farti più del male, no. Ah, come una madre può fare il male a suo figlio? Lasciami andare. Egli ebbe desiderio di gridare, eppure voi non mi avete fatto altro che del male. Ma si vinse. A che serviva gridare? Era inutile, indecoroso, no? Egli non voleva più gridare, solo col capo sempre stretto fra le mani, con voce nello stesso tempo lamentosa e rabbiosa, continuò a rispondere: No, no, no. In fondo sentiva che Olì aveva ragione e capiva che ella veramente voleva andarsene per non renderlo infelice, ma appunto l'idea che in quel momento ella era più generosa e più cosciente di lui lo irritava e gliela rendeva odiosa. Ella si era trasformata, i suoi occhi illuminati lo guardavano supplichevoli e amorosi quando ripeteva: Lasciami andare. La sua voce vibrava e tutto il suo volto esprimeva una tristezza senza nome. Forse un sogno soave che giammai prima d'allora aveva rischiarato l'orrore della sua esistenza, le sfiorava l'anima. Restare, vivere per lui, trovare finalmente pace. Ma dal profondo dell'anima primitiva un istinto di bene, la scintilla che si cela anche nella selce, la spingeva a non badare a quel sogno. Una sete di sacrificio la divorava ed Anania lo capiva e sentiva finalmente che ella voleva, a modo suo, compiere il proprio dovere, come egli a modo suo voleva compiere il suo. Egli però era il più forte e voleva e doveva vincere con tutti i mezzi, anche con la violenza, anche con la necessaria crudeltà del medico che per guarire il malato gli apre la carne coi ferri. Ad un tratto ella si gettò per terra, ricominciò a piangere, supplicò, gridò e Anania rispose sempre no. Che farò dunque io? Ella singhiozzò. Nostra signora mia, cosa farò io? Bisogna che ti abbandoni ancora con inganno per farti il bene per forza. Sì, io ti lascerò, io me ne andrò. Tu non sei il mio padrone. Io non so chi tu sei. Io sono libera e me ne andrò. Egli sollevò il volto e la guardò. Non era più irato, ma i suoi occhi freddi e il suo viso livido, improvvisamente invecchiato, incutevano spavento. Sentite, disse con voce ferma. Finiamola. Hai deciso tutto e non c'è da discutere oltre. Voi non muoverete un passo senza che io lo sappia e badate bene e tenete a mente le mie parole come se fossero le parole di un morto. Se finora ho sopportato il disonore della vostra vita vergognosa era perché non potevo impedirlo e perché speravo di por fine a tale obbrobrio, ma d'ora in avanti sarà altra cosa. Se voi vi permettete di andare via di qua, vi seguirò, vi ucciderò e mi ucciderò. Tanto non mi importa più nulla di vivere. Olì lo guardava con terrore. In quel momento egli era rassomigliantissimo a zio Micheli, il padre, quando l'aveva cacciata via dalla cantoniera. Gli stessi occhi freddi, lo stesso volto calmo e terribile, la stessa voce cavernosa, lo stesso accento inesorabile. Le parve di vedere il fantasma del vecchio che risorgeva per castigarla e sentì l'orrore della morte intorno a sé. Non disse più parola e si accoccolò per terra, tutta tremante di spavento e di disperazione. Una triste notte cadde sul villaggio desolato dal vento. Anania, che non aveva potuto trovare un cavallo per ripartire subito, dovette passare la notte a Fondi e dormì di un sonno inquieto, simile al sonno di un condannato, nella prima notte dopo la sentenza. Olì e la vedova vegliarono lungamente accanto al fuoco. Olì aveva il freddo foriero della febbre e batteva i denti, sbadigliava e gemeva, come in una notte lontana. Il vento rombava sopra la cucina vigilata dalla spoglia nera del bandito e la vedova filava alla luce giallognola del fuoco, impassibile e pallida come uno spettro. Ma questa volta ella non narrava alla sua ospite le storie del marito e non osava confortarla, solo di tanto in tanto la supplicava inutilmente di andare a letto. «Andrò se mi fate una carità», disse finalmente Olì. «Parla! Chiedetegli se egli ha ancora la rezzetta che gli diedi il giorno che siamo fuggiti di qui e pregatelo di farmela vedere». La vecchia promise e Olì si alzò. Tremava tutta e sbadigliava tanto che le sue mascelle scricchiolavano. Tutta la notte vaneggiò, arsa dalla febbre. Ogni tanto chiedeva la rezzetta e si lamentava infantilmente perché zia Grazia, coricatale a fianco, non si alzava e non andava da Anania per chiedergliela. Un dubbio le attraversava la mente in delirio, che Anania non fosse suo figlio. No, egli era troppo crudele e spietato. Ella, che era stata la vittima di tutti, non poteva convincersi che suo figlio dovesse torturarla più degli altri. Nel delirio raccontò a zia Grazia che aveva attaccato al collo di Anania quel sacchettino per riconoscerlo quando sarebbe stato grande e ricco. «Io volevo andare a trovarlo un giorno, vecchia vecchia, col bastone, dun dun. Picchiavo alla sua porta. Io sono Maria Santissima, trasformata in mendicante. I servi ridevano e chiamavano il padrone. Vecchia, che cosa vuoi? Io so che tu hai un sacchettino così e così. Io so chi te lo ha dato. Se tu oggi hai tante tancas e servi e buoi, lo devi a quella povera anima che ora è ridotta a 7 once di polvere. Addio. Dammi un po' di pane col miele e perdona alla povera anima. Servi, segnatevi questa vecchia che indovina ogni cosa e Maria Santissima. Ah, la rezzetta, la voglio. Quel giovine non è lui. La rezzetta, la rezzetta. All'alba zia Grazia entrò da Anania e gli raccontò ogni cosa. Ah, disse egli con un sorriso amaro. Ci voleva anche questa, che ella dubitasse. Gliela farò vedere io, se sono io. Figlio, non essere snaturato, contentala almeno in questa piccola cosa, supplicò zia Grazia. Ma io non l'ho più quel sacchettino, l'ho buttato via. Se lo ritroverò, ve lo manderò. Zia Grazia insisté inoltre per sapere l'esito del colloquio che Anania avrebbe avuto con la fidanzata. Se ella veramente ti vuol bene, si rallegrerà della tua buona azione, gli disse per confortarlo. No, non ti rifiuterà, anche se tu le dici che non rinneghi tua madre. Ah, l'amore vero non bada ai pregiudizi del mondo. Io amavo pazzamente mio marito quando tutto il resto del mondo lo disprezzava. Vedremo, disse melanconicamente Anania, vi scriverò. Per carità, non scrivermi gioielle d'oro. Io non so leggere, lo sai, e non voglio far sapere a nessuno i fatti tuoi. Piuttosto mandami un segno. Senti. Se ella non ti rifiuta, mandami la rezzetta avvolta in un fazzoletto bianco. Se ti rifiuta, mandala avvolta in un fazzoletto di colore. Egli promise di contentare la vecchia. Ma tu quando tornerai? Non so. Fra non molto, certamente, appena avrò aggiustato i miei affari. Egli partì senza aver riveduto lì. Un'angoscia infinita lo opprimeva. Il viaggio gli sembrava eterno e sebbene un tenue filo di speranza lo guidasse, non avrebbe voluto arrivare mai a Nuoro. «Ella mi ama», pensava. «Forse mi ama come nonna amava suo marito. La sua famiglia mi disprezzerà, mi caccerà, ma ella mi dirà: ti aspetterò, ti amerò sempre». «Sì, ma che posso io prometterle? Oramai il mio avvenire è distrutto». Un'altra speranza inconfessabile egli sentiva però in fondo al cuore, che Olì fuggisse ancora. Egli non osava palesare a se stesso questa speranza, ma la sentiva e se ne vergognava. E ne calcolava tutta la viltà, ma non poteva scacciarla. Nel momento in cui aveva gridato «Vi ucciderò e mi ucciderò!» era stato sincero, ma ora gli pareva che tutto fosse stato un orribile sogno e nel rivedere la strada e i paesaggi che 3 giorni prima aveva attraversato con tanta gioia nell'anima e nell'avvicinarsi a Nuoro il senso della realtà lo stringeva acerbamente. Appena arrivato cercò il sacchettino e per un'idea superstiziosa, poiché egli credeva che le cose prevedute non avvengono, lo avvolse in un fazzoletto di colore, ma poi pensò che i tristi avvenimenti di quei giorni egli li aveva sempre attesi e preveduti e si irritò contro la sua puerilità. Del resto, perché debbo mandare il sacchettino? Perché debbo contentarla? Disse fra sé, sbattendo l'involto contro il muro. Ma subito lo raccattò, pensando, per zia Grazia. Alle 4 vado dal signor Carboni e gli dico tutto, decise poi. Bisogna finirla oggi stesso, bisogna essere uomini. Ed ora dormiamo. Si buttò sul letto e chiuse gli occhi. Erano circa le 2, un meriggio caldissimo e silenzioso. Egli aveva ancora nelle orecchie il rombo del vento, ricordava il freddo della notte passata a Fogni e provava una strana impressione. Gli pareva di essere caduto in un abisso roccioso, fra montagne erte desolate, che soffocavano il breve orizzonte, ricordi lontani gli risalivano dal profondo dell'anima, le notti di febbre a Roma, il fragore del vento su Bruncuspina, una poesia dell'Henao, i masnadieri nella taverna della Landa, la canzone del Mandriano che era passato nella straducola la sera in cui zia Tatana aveva chiesto la mano di Margherita. Ma nello sfondo della sua immaginazione nereggiava sempre la cucina della vedova, col cappotto nero e vuoto come un simbolo, con la figura di Olida e i grandi occhi di gatto selvatico. Che dolore e che tristezza gli causavano ora quegli occhi. Così rimase a lungo, senza poter dormire, ma con gli occhi ostinatamente chiusi, immerso in un cupo torpore. A un tratto pensò alla morte, meravigliandosi che questo pensiero non gli fosse ancora balenato in mente. Nessuna cosa è più certa della morte, eppure ci tormentiamo tanto per cose che passano inesorabilmente. Tutto passerà, tutti morremo. Perché soffrire così? E se alle 4 mi suicidassi? Sì. Per qualche momento l'impressione della fine lo gelò tutto. Passò, ma gli lasciò una oppressione così spaventosa che egli sentì il bisogno di scuotersi per liberarsene. Solo allora si accorse che in fondo, mentre gli pareva d'essere in preda alla più cupa disperazione, egli sperava sempre. Margherita, Margherita, parlerò con lei stanotte. Ella mi dirà di tacere ogni cosa a suo padre, di aspettare, di fingere. No, non voglio essere vile. Voglio essere uomo. Alle 4 sarò dal signor Carboni. E alle 4, infatti, egli passò davanti alla porta di Margherita, ma non poté fermarsi, non poté suonare. E passò oltre, avvilito, pensando di ritornare più tardi, ma convinto, in fondo, che non sarebbe riuscito già mai ad avere il colloquio col padrino. 2 giorni e 2 notti trascorsero così, in una vana battaglia di pensieri cangianti come onde agitate. Nulla pareva mutato nella sua vita e nelle sue abitudini. Egli aveva ripreso a dar lezioni agli studentelli in vacanza, leggeva, mangiava, passava sotto le finestre di Margherita e vedendola la guardava ardentemente, ma durante la notte zia Tatana lo udiva camminare per la camera, scendere nel cortile, uscire, rientrare, vagare. Pareva un'anima in pena e la buona vecchia lo credeva ammalato. Che aspettava egli? Che sperava? Il giorno dopo il suo ritorno, vedendo un uomo di Fogni attraversare la viuzza, impallidì mortalmente. Sì, egli aspettava qualche cosa d'orribile, la notizia che ella fosse scomparsa nuovamente, e si accorgeva benissimo della sua viltà, ma nello stesso tempo era pronto ad eseguire la sua minaccia. Vi seguirò, vi ucciderò e mi ucciderò. In certi momenti gli pareva che niente fosse vero. Nella casa della vedova c'era soltanto la vecchia col suo cappotto e le sue leggende e niente altro, niente altro. La seconda notte dopo il suo ritorno, udì zia Tatana raccontare una fiaba ad un bimbo del vicinato. La donna fuggiva, fuggiva, gettando dei chiodi che si moltiplicavano, coprivano tutta la pianura. Ezio Orco la inseguiva ma non arrivava a prenderla perché i chiodi gli foravano i piedi. Che piacere angoscioso aveva destato quella fiaba in Anania bambino, specialmente nei primi giorni dopo il suo abbandono. Quella notte egli sognò che l'uomo di Fonni gli aveva portato la novella e le era fuggita, egli la inseguiva attraverso una pianura coperta di chiodi. Eccola! E lei là all'orizzonte, fra poco egli la raggiungerà e la ucciderà. Ma egli ha paura. Ha paura perché ella non è Oli. È il mandriano passato nella viuzza mentre zia Tatana era dal signor Carboni. Anania corre, corre, i chiodi non lo pungono, eppure gli vorrebbe che lo pungessero. Oli, trasformato in mandriano, canta. Canta i versi dell'Enau, i masnadieri nella taverna della Landa. Ecco che gli sta per raggiungerla e ucciderla, e un gelo di morte lo agghiaccia tutto. Si svegliò coperto da un sudore freddo mortale. Il cuore non gli batteva più ed egli scoppiò in un pianto d'angoscia violenta. Il terzo giorno, Margherita, meravigliata che egli non scrivesse, lo invitò al solito convegno. Egli andò, raccontò la gita, si abbandonò alle carezze di lei come un viandante stanco si abbandona alle carezze del vento, all'ombra d'un albero sull'orlo della via, ma non poté dire una sola parola sul cupo segreto che lo divorava.